Incontri di Gianfranco Fabi. L'indimenticabile musica, l'indimenticabile notte di Nicola Piovani, La vita è bella, iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti si ascoltano, buonasera Don Antonio Sciortino. Buonasera a tutti voi. Don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana. La vita è bella, possiamo aggiungere, forse dobbiamo aggiungere, nonostante tutto. Nonostante tutto, perché questi non sono momenti belli, soprattutto per le famiglie italiane, lo vediamo tutti i giorni. Come fanno fatica ad arrivare a fine mese, e le difficoltà sono davvero, davvero tante, e speriamo che il nuovo anno possa dare qualche segnale di ripresa, di ottimismo. Siamo alla vigilia di Natale, tra pochi giorni è Natale, un Natale un po' diverso, ma un Natale però sempre uguale. Il messaggio del Natale è un messaggio che supera il tempo e che supera anche i problemi. Qual è il messaggio di Natale che dà Famiglia Cristiana quest'anno? Ma il messaggio che dà la Famiglia Cristiana è il messaggio quello che dà il cristianesimo, un Dio che si è fatto uomo come noi, in tutto ha condiviso la nostra condizione umana, e soprattutto un messaggio di speranza per le persone più umili, soprattutto per i poveri. Forse noi dovremmo riscoprire in questa festa chi è il festeggiato, perché in questi anni abbiamo tramutato il Natale in una festa di consumismo. La crisi forse ci costringe a una riflessione, a una sobrietà di vita maggiore rispetto al passato, e forse è bene da questa crisi riscoprire dei valori che ci possono aiutare e servire. Ci vuole davvero un po' più di speranza, un po' più di ottimismo, e per i credenti, per i cristiani, questo bambino che nasce, che viene in mezzo a noi e porta un messaggio di speranza, un messaggio di ottimismo, nonostante tutto, nonostante le difficoltà, perché non possiamo assolutamente ignorare la situazione difficile in cui viviamo. Certo, significativo che il recente documento del Papa si intitola proprio Evangelium Gaudium, cioè la gioia del Vangelo. Il Natale è in fondo la festa della gioia, tradizionalmente la festa anche dei bambini, la festa non solo dell'ottimismo, ma di una gioia fondata sulla realtà delle cose, sulla concretezza, una gioia che supera anche le difficoltà e che forse aiuta a capire che le difficoltà sono un passaggio che si possono affrontare, si possono risolvere anche con l'aiuto poi di tutti, quindi anche una festa della solidarietà. Questo Evangelium Gaudium è un documento molto forte, quello del Papa. Beh, non dimentichiamo che il Vangelo ha come significato buona novella, buona notizia, quindi già il Vangelo in sé è una bella notizia, una bella novella che ci viene da Dio. Ma questa gioia bisogna che i cristiani la diffondano, perché questa esortazione apostolica di Papa Francesco impegna i cristiani a testimoniare la bellezza e la gioia del Vangelo, e lo dice con molta chiarezza: non possono i cristiani avere la faccia da funerale, non possono avere la faccia della Quaresima senza la Pasqua. E soprattutto quello che è importante e fa parte del messaggio cristiano, quello di essere vicino soprattutto ai poveri, portare questa buona novella a coloro che più ne hanno bisogno. E questo fa parte del cuore del messaggio cristiano, non è qualcosa di estraneo e di lontano. Di recente questo Papa ha fatto un videomessaggio richiamando l'attenzione della fame nel mondo. Ha invitato tutti ad appoggiare questa campagna internazionale della Caritas per combattere la fame nel mondo. C'è 1 miliardo di persone che muoiono di fame. Paradossalmente 1 miliardo di persone muoiono di fame e 2 miliardi di persone si ammalano e muoiono per eccesso di cibo. E allora il Papa invita davvero a fare attenzione a questa disuguaglianza, a questa disparità. E se il Natale ci aiutasse anche ad aprire gli occhi a coloro che hanno bisogno, ad allargare questa solidarietà nei confronti delle persone più bisognose, beh, io credo che avremmo centrato il messaggio evangelico del Natale. Ecco, il Papa certamente è forse la notizia dell'anno, questo cambiamento forte all'interno della Chiesa, un cambiamento che non è una discontinuità, è comunque un cambiamento che era nella natura delle cose, forse era già anche preparato anche dall'esperienza del Papa precedente e da questo gesto clamoroso delle dimissioni. Ha cambiato molto la Chiesa, Papa Francesco, l'immagine sicuramente sì, ma visto un po' dall'interno, da lei che è sacerdote e direttore di Famiglia Cristiana, quali sono le percezioni dall'interno della Chiesa? Ma guardi, questo è un Papa rivoluzionario, ma la rivoluzione che sta facendo è la rivoluzione del Vangelo, è la rivoluzione della testimonianza, sta chiedendo alla Chiesa di essere coerente con quello che annuncia. La cosa più importante oggi, soprattutto per i non credenti, è vedere che i cristiani sono coerenti con quello che annunciano. Oggi c'è bisogno della testimonianza e c'è bisogno di una Chiesa che si apra al mondo. Questo Papa insiste nel dire che la Chiesa deve avere le porte aperte, deve andare per le vie del mondo, deve anche rischiare, deve anche incidentarsi, c'è il rischio degli incidenti, il rischio degli errori, però è meglio una Chiesa aperta che va vicino al mondo e alle persone che una Chiesa che si ammala di autoreferenzialità. La rivoluzione di questo Papa è la rivoluzione che aveva cominciato il Concilio Vaticano II, sta rilanciando quelli che erano i principi del Concilio Vaticano II, il coinvolgimento dei laici, la piena corresponsabilità dei laici, la collegialità dei vescovi, il dialogo con le altre religioni, tutti i principi che questo Papa sta attuando concretamente. È una bella sferzata per la Chiesa, una bella sferzata soprattutto per quella Chiesa che vuole difendere chiusa nei propri recinti. Non dimentichiamo che, contrariamente alla parabola del Vangelo, un tempo avevamo 99 pecorelle dentro il recinto e una sola pecorella fuori da andare a recuperare. Oggi le cose si sono rovesciate, ci sono 99 pecorelle fuori e una sola nel recinto, quindi è necessario, lo dice nella esortazione, andate, questa gioia missionaria di portare il Vangelo a tutti, comunque. Ecco, e questo è un po' anche alla base dell'evangelizzazione, ma anche della comunicazione. La Compagnia di San Paolo, l'editore di Famiglia Cristiana, una tradizione di comunicazione, Famiglia Cristiana è uno strumento di comunicazione che, peraltro, come tutti gli strumenti di comunicazione, soffre un po' anche di questo periodo un po' complesso, un po' difficile, in cui cambiano anche gli atteggiamenti dei lettori, di chi cerca la comunicazione. Anche Famiglia Cristiana ha sentito un po' la crisi. Beh, l'editoria è un po' tutta in crisi, noi siamo inseriti pienamente in questo mondo, però noi siamo nati nella Chiesa per annunciare il Vangelo attraverso i mezzi di comunicazione e nel 2014 compiamo il primo centenario della nostra fondazione, per cui è importante insistere nella comunicazione e trovare nuove vie per comunicare il messaggio eterno del Vangelo, per cui anche le vie telematiche sono le vie che dobbiamo utilizzare e mettere a servizio dell'annuncio del Vangelo. Questo è lo scopo e la missione della nostra congregazione, nonostante le tante difficoltà che sappiamo nel mondo della comunicazione. Ecco, avete anche ridisegnato un po' il settimanale nelle ultime settimane. Certo, come tutte le case ogni tanto c'è bisogno di rinfrescarle. Abbiamo ridato a Famiglia Cristiana una veste nuova, un'organizzazione nuova dei contenuti, ma soprattutto abbiamo accentuato quello che è un po' la Chiesa di Francesco, quindi una rivista ancora più aperta, ancora più dialogante, ancora più vicino ai poveri e soprattutto gioiosa, perché l'annuncio del Vangelo che dobbiamo fare lo vogliamo fare anche in un modo gioioso. Quindi una rivista piacevole da leggere ma piena di contenuti. E quindi che riserva anche qualche sorpresa magari per fine anno, ma magari ne parliamo nella seconda parte delle iniziative che avete in cantiere per questi giorni, magari per questi giorni di Natale o per le prossime settimane, per il prossimo anno. Ci fermiamo un attimo per le notizie sul traffico, ma restate con noi. Incontri. Ancora con le note di Nicola Piovani, La vita è bella, il film indimenticabile di Roberto Benigni, che è un film che ci ricorda anche le tragedie umane, ma anche la possibilità, e soprattutto la possibilità di rinascere dalle tragedie, di avere sempre una speranza. Prendiamo il nostro incontro con Don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana. Abbiamo parlato nella prima parte delle grandi novità anche all'interno della Chiesa, soprattutto all'interno della Chiesa in quest'anno, con Papa Francesco, che ha certamente cambiato con il suo richiamo molto aperto, molto diretto e molto ricco appunto di speranza e soprattutto di gioia, anche l'approccio che i cristiani devono avere verso il mondo. Abbiamo parlato anche di Famiglia Cristiana, anche dei problemi che ha la comunicazione in questa fase molto complessa, in cui i mezzi tradizionali sono un po' superati, ma non si sa ancora bene come, anche dai nuovi strumenti di comunicazione. Famiglia Cristiana resta un modello in fondo di comunicazione, diceva Don Sciortino, ha cambiato anche modo di essere settimanale, cercando di essere più vicino ai lettori, più vicino alle loro esigenze, più vicino anche a rispondere ai tanti problemi che ci sono. Ecco, a Natale, adesso in questo numero, in questa settimana, c'è in copertina il presidente della Coldiretti. Sì, abbiamo voluto dedicare la copertina a un giovane presidente della Coldiretti, Moncalvo, e a tutto il mondo legato alla terra. Anche questo in qualche modo si collega al messaggio di Papa Francesco, quello di rispettare l'ambiente, recuperare davvero la terra, e un'attenzione agli sprechi, un'attenzione a quello che si produce. È un giovane presidente e dà davvero un segno di novità e di speranza, ma soprattutto affronta i problemi che hanno a che fare questa certo. categoria, soprattutto legato al Made in Italy. Ci sono stati in questi giorni tutti i problemi di prodotti che arrivano dall'esterno e a scapito di quelli italiani il Made in Italy viene messo in discussione. Noi abbiamo questa grandezza che sono i prodotti italiani, su cui davvero bisognerebbe impostare una politica economica totalmente valorizzando quello che nessuno ci certo, può copiare. Abbiamo una grande tradizione di nessuno produzioni. Nessuno ci può copiare certo, questi prodotti. Di produzioni, ma anche poi di cucina. Abbiamo una grande tradizione di cuochi che sanno fare dei piatti veramente ineguagliabili. Credo che l'Italia potrebbe certo. vivere di arte, di cultura e di gastronomia. Enogastronomia. Ecco, possiamo anticipare, poi ci sarà appunto a Natale, 25 dicembre, tra pochi giorni, un numero speciale per Natale, il numero di settimana prossima, possiamo anticipare cosa ci sarà in copertina? Possiamo anticipare questo, come facciamo da 4 anni, noi ogni anno scegliamo il personaggio dell'anno. Negli anni passati abbiamo dedicato la nostra scelta alla Laura Boldrini, quando era all'Alto Commissariato dell'ONU, per l'impegno nei confronti appunto dei rifugiati. Poi l'abbiamo dedicato al Cardinale Martini per l'impegno nella città. E l'ultimo, l'anno scorso, l'abbiamo dedicato al Presidente della Repubblica Napolitano, proprio come il personaggio che in un momento difficile per l'Italia ha saputo essere un punto di riferimento importante. Quest'anno è l'anticipazione. E abbiamo voluto dedicare il personaggio dell'anno all'isola di Lampedusa. Quindi un personaggio un po' sui generis. È un'isola, ma l'isola vuol dire tutti i suoi abitanti, dal sindaco al parroco, a tutti coloro che in questi tempi difficili hanno saputo con generosità dimostrare un'accoglienza nei confronti di questi poveri cristi che arrivano a cercare un po' di speranza sulle nostre coste. Manco farla apposta, anche questo ha un tocco di Papa Francesco. Certo, perché è stato il primo viaggio di Papa vorrei Francesco. Ricordare che il primo viaggio di Papa Francesco è stato alla periferia geografica dell'Italia e dell'Europa, ma anche alla periferia esistenziale, per richiamare l'attenzione non solo dell'Italia, ma dell'Europa e del mondo intero su questo dramma che veniva un po' dimenticato. Ha voluto pregare per più di 20.000 persone che sono morte. E abbiamo visto come c'è stato poi questa grande tragedia, più di 300 certo. persone, e la visita del Papa e l'impegno degli isolani di Lampedusa ci richiama a una diversa e migliore politica nei confronti di chi viene da fuori. Noi dobbiamo concepire ormai l'umanità come un'unica famiglia umana, anche questo è un messaggio natalizio, un'unica famiglia umana per cui bisogna rispettare i diritti dell'accoglienza, e il tema dell'accoglienza è quanto di più cristiano ci possa essere, sia pure nel rispetto della legalità, nel rispetto della sicurezza. Quindi un'apertura agli altri e non una chiusura, non alzare i muri, ma creare e gettare dei ponti. Per cui Gli isolani hanno dato un esempio di solidarietà, di accoglienza, hanno fatto di tutto, hanno fatto delle catene umane per salvare più persone possibile. E io reputo che sia giusto dare il dovuto riconoscimento all'isola e ai suoi abitanti. Quindi è un riconoscimento, il personaggio dell'anno, possiamo dire, il fatto dell'anno, indubbiamente Lampedusa racchiude in sé tanti problemi della nostra epoca, un'epoca appunto convulsa, che sta cercando dei nuovi equilibri, che ha appunto problemi, tra l'altro appunto alle nostre frontiere, con un'Africa che è un continente dalle tantissime facce, con tantissimi problemi, comunque può essere anche una speranza perché appunto anche l'Africa sta mostrando dei segni di apertura, dei segni di crescita, dei segni di superamento di quelle che erano le tradizionali logiche invece della corruzione e dei poteri forti nazionali. Ecco, allora, guardando un po' in avanti al prossimo anno, quali sono gli auguri che possiamo fare, che potete che farete da Famiglia Cristiana per il 2014? Ma gli auguri che facciamo che possa essere un anno in cui ci sia un po' di ripresa dal punto di vista economico, che ci sia una maggiore attenzione per le famiglie, ma soprattutto io vorrei che la classe dirigente di questo paese, la classe politica, avesse maggiore coscienza della delicatezza del momento che noi viviamo. Non è tempo di contrapposizione, non è tempo di gettare benzina sul fuoco, ma è tempo di dare speranza alle famiglie che sono ormai arrivate al limite dell'esasperazione. L'abbiamo visto con le varie manifestazioni dei giorni scorsi. Ci sono dei segnali di speranza. Il fatto stesso che quasi 3 milioni di persone sono andate a votare alle primarie di un partito politico vuol dire che c'è ancora una speranza che la politica possa tornare a dare un segno positivo. Ma il segno positivo deve superare gli interessi particolari e pensare al bene comune di questo paese, pensare al bene delle famiglie, al bene dei lavoratori e soprattutto al bene dei giovani. E questo è importante, i giovani sono un elemento fondamentale per la società. Vi stava dicendo appunto sui giovani? Sui giovani noi dovremmo riflettere tantissimo perché noi ci stiamo alienando il futuro, non abbiamo fiducia e non investiamo sui giovani. I dati che ci danno all'Istat sono dei dati terribili, per cui abbiamo dei giovani che ormai il futuro lo cercano all'estero, non credono più in questo paese. Per cui l'augurio più forte, visto che anche c'è questo ricambio generazionale in tanti settori delle istituzioni, a cominciare dalla politica, dare più speranza, più futuro ai giovani, in modo tale che i giovani sono l'energia vitale di cui certo ha bisogno questo paese. Bisogna anche guardare le cose, certamente sono una forma problematica, però anche negli aspetti positivi che hanno. Questo stesso problema dei giovani, per esempio nel rapporto del Censis che è stato pubblicato all'inizio di dicembre, si parla sì dei giovani che vanno all'estero, però non tanto come i nuovi poveri emigranti, ma come i navigatori del mondo globale, e quindi con un'ottica proprio di una prospettiva nuova, i giovani che cercano le opportunità e speriamo che poi mantengano anche la volontà di tornare. Quindi anche questa prospettiva, cercare di guardare i problemi che ci sono tanti, anche da una prospettiva positiva, non solo per lamentarsi, ma anche per essere costruttivi. Questo può essere anche una missione di operatori della comunicazione. No, questo è vero, bisogna esaltare anche le cose che sono positive. E credo che noi operatori del mondo della comunicazione dobbiamo anche dare e raccontare quello che di positivo c'è. Noi abbiamo anche dei giovani che sono bravissimi. Questi giovani che vanno all'estero eccellono nei vari campi in cui sono inseriti. E questa navigazione all'interno delle altre nazioni è importante, che non esclude il paese certo da cui si parte, perché è importante che facciano delle esperienze all'estero, ma tutto questo possa tornare anche a beneficio del paese da cui sono partite, in cui hanno avuto la formazione. Certo, in cui peraltro ha speso molto per la loro fondazione. Certo, noi li abbiamo formati e spesso sono altri che ne usufruiscono dei benefici. Concludendo, guardando un po' proprio gli strumenti della comunicazione, i giornali resteranno, speriamo, ad essere una forma di comunicazione, ma a fianco di questi anche Famiglia Cristiana ha un sito internet. Come è accolto, come funziona? No, io sono convinto che i giornali avranno ancora vita e che la scommessa per il futuro sia l'integrazione tra la carta stampata e internet. Noi abbiamo scommesso proprio su questa integrazione. Oltre alla rivista abbiamo il nostro sito online, Famiglia Cristiana Online. Non è un giornale generalista, ma e ogni giorno alimentiamo una camera di discussioni sui temi importanti, e questo ci aiuta anche a raggiungere un pubblico completamente diverso rispetto al cartaceo, perché il mondo di internet è quello abitato frequentemente, abitualmente, dal mondo giovanile, che col cartaceo più difficilmente riusciamo a raggiungere. E devo dire che l'interazione ci stimola tantissimo, perché l'internet, l'online, è immediato e tempestivo più di quanto non lo possa essere il cartaceo. E questo ha dato anche a tutta la nostra redazione un passo nuovo, un passo diverso, un passo anche più entusiasta. Ecco, qualche segno anche di ripresa dal profilo sociale in questo fine d'anno forse c'è, si parla di almeno di fine della recessione, se non di ripresa economica, un po' di ripresa della pubblicità sul fronte della carta stampata, anche della rivista. Possiamo guardare con un po' più di ottimismo al 2014? Bisogna farlo, e credo che sia importante farlo, perché qualche segnale c'è, bisogna davvero rinforzarlo e fare di tutto perché appunto la crisi ce la possiamo ormai lasciare alle spalle, con tutto l'impegno che questo comporta. E allora buon Natale e buon anno, buon Natale e buon anno a Don Antonio Sortino, buon Natale e buon anno a quanti ci hanno ascoltato, sperando appunto che questo Natale sia, come sempre deve essere, un grande messaggio di speranza e di pace, e che l'anno nuovo possa essere costruttivo per tutti. Grazie e buon Natale a tutti. Grazie a Don Sortino, grazie a Pietro Bescapè in regia e Luca Cremonese in redazione. Buon Natale e buon anno, e vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.